Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. È un volo interrotto bruscamente quello che raccontiamo oggi. È il volo di un pugile professionista che forse sarebbe potuto diventare campione del mondo dei pesi medi negli anni 60. Oppure no, non lo sapremo mai. Magari invece la sua carriera non sarebbe arrivata alla vetta. Lui comunque quell'opportunità non l'ha potuta vivere perché il suo volo è stato bloccato dalla giustizia, da investigatori, da giurie, giudici che forse non gli garantirono una equa esame del suo problema di fronte a un'accusa pesantissima, triplice omicidio. Oggi vi raccontiamo la storia controversa e difficile di Robin Hurricane Carter. Lo facciamo anche grazie a un nostro ascoltatore, Daniele. Buongiorno Daniele. Buongiorno Enrico. Buongiorno, da dove ci chiami Daniele? Io sono di Fermo. Fermo, ah, dalle Marche. Come mai vuoi che noi si racconti la storia di Robin Carter? Io ho conosciuto la storia di Robin tramite la canzone di Bob Dylan. Sì, e... come tutti, anch'io devo dire. Cosa che mi ha colpito molto, ero un ragazzino molto giovane. A quel punto ancora non sapevo niente di razzismo e diritti civili, quindi mi colpì molto. Beh, è una storia, sì, nella quale insomma il fatto che lui sia nero incide molto, come del resto in molte storie americane. Il 90% dei condannati a morte sulla sedia elettrica temo che siano neri. Comunque noi adesso te la raccontiamo, è una storia controversa, ha varie chiavi di lettura. Daniele Corradi da Fermo, io ti ringrazio e buon ascolto. Grazie a te. I knew that I was innocent. I knew that I was not in prison. Sapevo di essere innocente. Sapevo che non mi trovavo in prigione per aver commesso un omicidio. Lo sapevo. Così ogni giorno passato in prigione per me significava combattere contro il sistema penitenziario. Non avrei mangiato il cibo che mi offriva, non avrei indossato i vestiti che mi dava, non avrei nemmeno riconosciuto l'esistenza delle guardie o del direttore delle guardie, non avrei parlato con loro. Ecco perché trascorsi tutto quel tempo in isolamento. La vicenda di Robin Carter è stata raccontata nel 1999 da Hollywood in un famoso film con Denzel Washington, però diciamolo subito, il film si è preso qualche licenza di troppo nella migliore delle ipotesi, ha omesso pezzi importanti della vita del nostro protagonista, ne ha deformati altri, insomma Hollywood lo fa spesso quando racconta storie che hanno la pretesa di essere del tutto vere. Il risultato finale è un bel film che però non racconta la verità. Come sempre la verità è più complessa di come viene rappresentata dal cinema. Robin Carter nasce il 6 maggio del 1937 a Clifton nel New Jersey, passa l'infanzia e l'adolescenza nella vicina Paterson, che è una cittadina che significa molto per gli italiani perché è proprio lì che alla fine dell'Ottocento si concentra una fetta consistente dell'immigrazione italiana, costituisce una comunità numerosa e radicata, in qualche modo contribuisce anche alla diffusione dello stereotipo dell'italo-americano del New Jersey, tipo Tony Soprano, è un po' una roccaforte di Cosa Nostra, l'italo-americano è un po' mafioso o in odore di mafia, magari vestito in modo sgargiante con i capelli pieni di gel, che parla come molti personaggi di Robert De Niro. Insomma, lo scenario è un po' questo. Però lui fa parte di una minoranza diversa, quella degli afroamericani. Cresce con i suoi sei fratelli in una famiglia normale, i genitori lavorano, riescono a far fronte alle necessità quotidiane, insomma non è un contesto di povertà. Nonostante ciò, lui inizia prestissimo a avere problemi con i suoi coetanei, con la polizia, perché è un violento, fa cazzotti. Colpa, dice lui in un'intervista, delle prese in giro di cui è oggetto. I suffer from a terrible speech impediment. Per i primi 18 anni della mia vita soffrii di un terribile disturbo del linguaggio. E quando la gente rideva mentre cercavo di parlare, l'unico suono che ricevevano in risposta era quello dei miei pugni che mulinavano in aria. Whistling through the air. Insomma, Rubin fa a botte, reagisce alle prese in giro, ma non solo, perché a 11 anni viene fermato dalla polizia per avere accoltellato un uomo, un bianco. E nel film del 99 si sostiene che Carter lo abbia fatto per proteggere un suo amico e se stesso da un molestatore, una versione molto bella, ma no, non si sa se sia vera. È sicuro che pochi giorni dopo il suo 14° compleanno viene arrestato per furto e aggressione. Ruba $55 e un orologio a un uomo e gli rompe in testa una bottiglia. Finisce il riformatorio. In virtù del reato precedente, quello dell'accoltellamento, e si cominciano insomma a sommare le sue pendenze con la giustizia. La verità probabilmente è che Rubin Carter è un ragazzo difficile. Sentiamo James Hirsch, autore di un libro proprio su di lui, su Harry Caine. Rubin imparò che non solo era bravo a fare a pugni, ma che la cosa gli piaceva anche. Già a quella giovane età a Rubin piaceva la violenza. Rubin scappa dal riformatorio nel 54. Si arruola nell'esercito americano a soli 17 anni. È addestrato a Fort Jackson nella Carolina del Sud, poi viene mandato in una base in Germania ed è lì che trova un modo per sfogare la sua violenza e la sua aggressività innata. Insomma, scopre la box. Si racconta di un incontro quasi leggendario sotto le armi, perché Carter sarebbe stato sfidato addirittura dal campione dei massimi in ambito militare, lo avrebbe buttato giù al primo round. Che questo racconto sia vero o no, lui intanto inizia a boxare e con questo sfogo sportivo però non si calma, finisce 4 volte davanti alla corte marziale per insubordinazione. Insomma, non ha il carattere giusto per essere un buon soldato, viene congedato dopo 21 mesi di carriera nell'esercito. A aspettarlo al suo rientro nel New Jersey ci sono i poliziotti. Lo arrestano e lo rimandano in carcere, quello vero, per scontare 10 mesi di reclusione per la fuga dal riformatorio. E questo è solo il primo di una lunga serie di arresti per reati diversi, soprattutto aggressione e rapina. Una ai danni di una donna di colore di mezza età, rimarrà in carcere per i successivi 4 anni e dietro alle sbarre riprenderà a boxare. Questa sarà, una volta libero, la sua fortuna, almeno per un breve periodo della sua vita. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la vita di Robin Harry Caine Carter, il pugile condannato per triplice omicidio negli anni 60, una vicenda diventata famosa prima per la canzone che gli ha dedicato Bob Dylan e poi per il film con Denzel Washington, una vicenda molto controversa su un uomo comunque dal passato molto violento. I was 29 years old. Avevo 29 anni quando mi arrestarono e ne avevo 49 quando mi liberarono. Ma andiamo con ordine, siamo a cavallo tra gli anni 50 e 60 e Rubin Carter è in carcere per reati violenti e riscopre la sua passione per la boxe e nel 61, appena rilasciato, decide di diventare professionista. È un peso medio, però è anomalo perché è più basso del normale, 1,73 m, e quindi è più robusto del normale. Il suo aspetto da professionista della boxe anticipa un po' il look che abbiamo conosciuto molti anni dopo nei pugili: fisico possente, testa rasata a zero, baffoni smisurati, tutto a creare un'immagine aggressiva, intimidatoria. E non è solo apparenza, perché lui ha talento, picchia forte, ha il pugno pesante che gli garantisce molte vittorie per KO. Colpisce con grande rapidità, sferra un numero impressionante di colpi consecutivi, le famose gragnole di pugni, diventa un beniamino del pubblico, si guadagna il soprannome di Hurricane, Uragano. La sua carriera è volta verso la grande occasione, la sfida mondiale. E ci vogliono tanti incontri per scalare la classifica, batte avversari importanti, comincia a farsi notare. Nel 63 la rivista Ring Magazine lo inserisce nella top 10 degli sfidanti al titolo. Sembra poter aspirare alla corona dei medi quando il 20 dicembre del 63 distrugge in pochi minuti un grande, il campione passato ma anche futuro, il campione del mondo Emil Griffith, quello che fece anche epici scontri con Nino Benvenuti. Bene, lui, questo Griffith, lo sbatte al tappeto due volte nel primo round e vince per KO tecnico. Niente da fare, l'incontro è finito! Incredibile, dopo solo 2 minuti e 13 secondi dall'inizio del primo round, Rubin Hurricane Carter ha battuto il campione del mondo dei pesi welter, Emil Griffith! La sua occasione per conquistare la cintura di campione mondiale dei pesi medi arriva nel 64, quando lui sale sul ring per sfidare il campione Joey Giardello. Al contrario di quanto racconti il film con Denzel Washington, l'esito dell'incontro non è controverso, ma è lampante, perché all'inizio Carter sembra prevalere e sfiora il KO alla quarta ripresa, ma da lì in poi Giardello si riprende, vince nettamente ai punti. Carter perde e perde posizioni nel ranking e nel 65 addirittura perde 4 dei 5 incontri più impegnativi, fino a subire una sconfitta umiliante con 3 atterramenti da un altro in odore di mondiale, che era Dick Tiger. Ma la sua immagine pubblica cresce, anche se non per motivi particolarmente edificanti, e diventa quella di un uomo aggressivo e duro, una specie di Mike Tyson dei tempi d'oro. E tra l'altro è un periodo di scontri razziali negli Stati Uniti, con repressioni durissime da parte della polizia contro i manifestanti afroamericani. In una intervista molto discussa, Carter si lascia andare a commenti pesanti che lo mettono in cattiva luce nei confronti dell'opinione pubblica. Lo racconta lo scrittore James Hirsch, autore di un libro proprio su Hurricane Carter. Nel 1964, Milton Gross, uno scrittore esperto di box, intervistò Rubin per un articolo sul Saturday Evening Post, in vista dello scontro tra Rubin e Joey Giardello per il titolo di campione dei pesi medi. Nell'intervista venne riportata la battuta secondo la quale Rubin avrebbe voluto andare ad Harlem con le sue pistole per far fuori qualche poliziotto. La storia fece conoscere Carter per la prima volta a un sacco di persone estranee al mondo della boxe, e la reazione negativa fu immediata, poiché Carter appariva come un pericoloso maniaco a piede libero. E questa non è la migliore immagine pubblica da avere, soprattutto in quell'America. E poi lui, insomma, non era un rapper, doveva essere uno sportivo. E poi c'è un accadimento che cambierà per sempre la sua vita. Giugno del 66, 2:30 di notte, due uomini di colore entrano in un bar di Patterson, il Lafayette Bar and Grill. Appena varcata la soglia, sparano sui presenti, una vera pioggia di fuoco. Il barista Jim Oliver e un cliente muoiono sul colpo e una donna morirà un mese dopo per le ferite. Una quarta persona rimane ferita, colpita a un occhio. Dei testimoni vedono salire due afroamericani su un'auto bianca e altri vedono questa auto, di cui si parlerà molto durante il processo, è lo stesso tipo di auto di quella su cui si sposta Rubin Hurricane Carter, e per il pugile sta per cominciare un incubo che durerà 20 anni e che vi racconterò tra poco. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Rubin Carter, il pugile chiamato Hurricane, che è rimasto in carcere per 20 anni per un triplice omicidio per il quale si è sempre dichiarato innocente. L'uomo che è stato cantato da Bob Dylan, che è stato impersonato da Denzel Washington, un uomo diventato un simbolo, forse addirittura al di là poi del reale accadimento dei fatti. Perché lui finisce in carcere dopo il massacro del Lafayette Bar, che è quello avvenuto nell'estate del 66, e due neri che entrano in un bar, sparano, fanno 3 vittime, un ferito grave. I testimoni, che non sono in grado di descrivere i killer, ma indicano un'auto bianca identica a quella con cui lui quella notte è in giro. Hurricane è con John Artis, un autista, un amico. La polizia li ferma, li porta immediatamente sulla scena del crimine, dove nessuno dei testimoni li identifica come assassini, e non lo fa neanche l'unico sopravvissuto alla strage nelle stesse ore. C'è da dire, ed è un particolare che il film non racconta, che sull'auto di Carter e Artis la polizia trova però una pistola e proiettili di fucile calibro 12, lo stesso dei colpi usati al Lafayette Bar. E non basta, i due Vengono immediatamente sottoposti alla macchina della verità e falliscono. Il tecnico che li sottopone all'esame scriverà che i due stanno mentendo alle domande che sono coinvolti nel crimine. E insomma, le cose si mettono male, anche se il test non è ammissibile come prova e anche se per il momento i due vengono rilasciati. Ci vogliono 7 mesi alla polizia, che è sottoposta a incredibili pressioni per portare il caso a una soluzione, per trovare le ragioni per incriminare Harry Kane Carter e Artis. Un nuovo testimone identifica il pugile e il suo amico. È anche un testimone della prima ora che aveva descritto i killer in maniera diversa, cambia idea, insomma li incastrano. Rubin Carter e John Artis vengono arrestati. Sentiamo lo storico della box, Mike Silver. I was a young fan at the time. Ero un giovane appassionato di box al tempo e quello era un uomo che aveva avuto parecchi guai con la legge, trascorrendo la maggior parte del tempo in carcere. Così, quando venne fuori la notizia del suo arresto per un triplice omicidio, devo confessare che pensai, beh, niente di cui stupirsi. It figures. Al primo processo le incongruenze nelle testimonianze sottolineate dalla difesa non bastano. Sembrerebbe il classico caso da insufficienza di prove. Però la giuria, composta da 12 bianchi, è di parere diverso. Ci sono indizi, il fucile trovato nella macchina, insomma, la sentenza è di colpevolezza. Sentiamo il ricordo dell'altro imputato, John Artis. La giuria si espresse così: giudichiamo Rubin Carter e John Artis colpevoli. Mi mancò il respiro, le ginocchia mi cedettero. Quando la giuria si alzò per lasciare l'aula, una delle giurate uscì dal seggio della giuria piangendo. Si girò verso un altro membro della giuria e disse: mi dispiace così tanto per lui. E mi indicò, per poi cambiare velocemente atteggiamento dicendo: ma non provo nulla per lui, indicando Rubin. E la condanna non può essere che all'ergastolo. Rubin Carter e John Artis iniziano la loro detenzione a vita nel carcere dello Stato. Avranno un secondo processo sulla base di nuovi indizi di innocenza, ma una nuova giuria, di cui questa volta fanno parte solo 2 bianchi, confermerà il verdetto. Rubin Carter, l'ex pugile, vive in prigione la sua personale battaglia contro il sistema carcerario con la durezza di chi si proclama innocente giorno dopo giorno. Rifiuta di indossare la tenuta dei carcerati, non partecipa all'ora d'aria, a stento accetta il cibo, è aggressivo e si chiude in se stesso. Tu dimmi dove andare e io andrò, ma non azzardarti mai ad alzare le mani su di me, perché se ti azzardi a farlo devi uccidermi immediatamente, perché se non lo farai io ti ucciderò. Chiuso nella sua disperata protesta rabbiosa e silenziosa, Harry Kane studia, legge libri, si interessa per esempio alla storia di Malcolm X, il leader afroamericano. Non solo, inizia anche a scrivere la propria autobiografia, la pubblica nel 74 con il titolo Il 16° round, da sfidante numero 1 a numero 45472. Manda il libro a molte personalità di rilievo dell'epoca, sportivi, cantanti, uomini dello spettacolo, e fa centro perché il libro e la sua vicenda colpiscono un cantante, di più che un cantante, un uomo che modificava il pensiero di un'intera generazione che legge questo libro. Il cantante in questione è niente meno che Bob Dylan, e lui abbraccia la causa di Rubin Carter, ne sostiene l'innocenza, scrive una canzone che si chiama Harry Kane, e la prima strofa recita: ecco la storia di Harry Kane, l'uomo che le autorità incolparono per qualcosa che non aveva mai fatto. Lo misero in prigione, ma sarebbe potuto diventare campione del mondo. La poetica di Bob Dylan nobilita in qualche modo la storia di Carter. Peraltro è anche uno dei brani, diciamo, più popolari di Bob Dylan, anche presso il pubblico più vasto, e lui porta la canzone anche in tournée. Insomma, il pezzo diventa un grande successo. Il pezzo è un successo, io mi ricordo che lo ballavo in discoteca. Però Dylan, come poi ha fatto anche Hollywood, si è preso delle licenze, comunque ha abbracciato la tesi innocentista, che sicuramente era anche più romantica per scrivere una canzone. Addirittura ha insinuato un possibile colpevole, il malavitoso Alfred Bello. Sta di fatto che la canzone e il libro scatenano una campagna a favore di Harry Kane, alla quale prende parte anche Muhammad Ali. Lui resta in carcere, è lì che riceve dal Canada nell'80 la lettera di un ragazzo, Ezra Martin, che è un giovane, un semi-analfabeta, aiutato a emanciparsi dalle sue povere origini da un gruppo di giovani canadesi. Questo ragazzo ha letto il libro di Carter, vuole dirgli quanto sia stato colpito dalla sua storia. Harry Kane risponde ed è l'inizio del percorso che lo porterà fuori dal carcere. Caro Ezra, perdonami per la risposta in apparenza tardiva. Ma colui che lamenta la mancanza di opportunità dimentica che al di là di piccole porte spesso si trovano delle grandi stanze. Non sei stato solo premuroso, ma anche perspicace. Francobolli, carta e buste erano proprio quello di cui avevo bisogno per completare questa trasmissione. La tua lettera, le emozioni, gli auguri, l'interesse e il calore balzavano letteralmente fuori dalla pagina mentre leggevo il tuo messaggio. È stato come se tu avessi letto i miei pensieri e ti fossi proteso per dividere i tuoi con me in un momento in cui io potevo ascoltarli. Perciò, grazie di cuore, ora e per sempre, il tuo amico e fratello, Reuben Harry Kane Carter. Insomma, comincia un rapporto fatto di lettere e poi anche di telefonate che coinvolge anche tutto il gruppo di canadesi che sta aiutando l'Ezra. Tutti si convincono dell'innocenza di Harry Kane, decidono di aiutarlo, lavorano a una petizione alla Corte federale insieme agli avvocati di Carter, si trasferiscono addirittura negli Stati Uniti per impegnarsi a tempo pieno, 3 anni di lavoro. E poi la richiesta di appello alla Corte federale. E questa richiesta va in porto, siamo nell'85, in realtà il film del 99 sostiene che l'appello viene accettato in virtù di nuove prove, questo non è vero, ma la sostanza resta la stessa. Il giudice della Corte federale, Haddon Lee Sarokin, prende una decisione storica e controversa. I documenti prodotti dimostrano in modo esauriente a questa Corte che la colpevolezza di Reuben Carter fu sostenuta ricorrendo più al razzismo che alla ragione, più all'occultamento di prove che alla loro completa divulgazione. Ordino pertanto che Reuben Carter venga rilasciato con effetto immediato dalla prigione in cui è detenuto. In quel momento pensai che si può fare tutto. Se hai impegno, se hai le persone giuste per portare avanti il tuo obiettivo e se sei capace di concentrarti su di esso. Ebbe qualche tipo di crollo quando fu finalmente rilasciato dalla Corte federale? Come sa, io ho perso la vista da un occhio in prigione. In quei giorni peggiorò la vista anche dell'altro. I miei capelli cadevano letteralmente a ciocche. Il crollo fu quindi fisico più che psicologico o emotivo. Dopo 19 anni in carcere, Reuben Carter, o meglio quel che resta di lui, torna un uomo libero. Non vedrà mai più le sbarre di una prigione. La pubblica accusa rinuncia a allestire un terzo processo perché è passato troppo tempo, molti testimoni sono morti, costerebbe troppo. Insomma, le accuse decadono per sempre. Dopo essere stato rilasciato, Harry Kane si trasferisce alla periferia di Toronto, in Ontario. Gli danno lavoro proprio quegli amici canadesi che hanno contribuito alla sua liberazione. Diventa direttore esecutivo di un'associazione che combatte contro gli errori giudiziari. E poi diventa motivatore, una figura richiesta spesso dalle aziende. Ironia della sorte, nel 96 viene di nuovo arrestato per sbaglio, ma lo scambio di persona viene subito ammesso dalla polizia, mentre il suo amico John Artis, dopo il carcere, finisce di nuovo nei guai e torna dietro le sbarre per traffico di droga e possesso di armi. È l'uscita del film di Juison nel 99 che fa riaprire la ferita del caso Carter. La possibilità che Denzel Washington vinca l'Oscar per la sua interpretazione di Harry Kane fa scattare una campagna contro. In molti, infatti, evidenziano gli errori nel film, alcune menzogne scritte da Carter nel suo libro, a partire dal suo presunto impegno a favore dei diritti dei neri, motivo per il quale nella sua versione dei fatti la polizia di Patterson lo avrebbe sempre tenuto nel mirino, e in realtà sappiamo che non era così. E intanto fioriscono siti che raccontano una verità diversa, che non mette in buona luce Harry, che insomma questa volta per motivi opposti, ma si trova ancora al centro dell'attenzione mediatica, al di là dei suoi meriti e dei suoi demeriti. E Robin Carter, l'ex pugile, l'ex ergastolano, lascia questo mondo il 20 aprile del 2014 all'età di 76 anni, da uomo libero che nasconde ancora molti misteri. Non tutte le storie che raccontiamo sono semplici o sono a una sola chiave di lettura, anzi quasi mai, perché la vita è così, è fatta di colpi d'ala, di errori, di cadute, di tentativi, di fraintendimenti, di fallimenti, di versioni controverse. Ognuno di noi è un po' la versione controversa di se stesso. E ognuno può cadere, ma può anche dare il colpo d'ala che lo porta a volare in alto. Se volete mandare i vostri commenti e segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it o visitate la nostra pagina, oppure venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social, insomma lo sapete, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani.